X24 di Giovanni Minoli. Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi e Bahrain hanno rotto le relazioni diplomatiche col Qatar, accusato di sostenere il terrorismo. Nonostante gli inviti alla calma del segretario di Stato americano Tillerson, è difficile pensare che la presa di posizione non sia stata concordata con gli Stati Uniti. Blocco totale dei voli e dei confini. I diplomatici del Qatar hanno tempo 48 ore per lasciare le nazioni ospitanti. Una crisi che potrebbe mettere parecchio in difficoltà l'Emirato, chiamato tra l'altro a organizzare i mondiali di calcio del 2022. La condanna del Qatar ufficialmente arriva per le recenti dichiarazioni, poi smentite, dell'emiro di Doha Al Thani a favore di Iran ed Hezbollah. In realtà ha origini antiche, specie da parte dell'Egitto, che accusa fin dal 2013 il Qatar. Pronta la replica del Qatar, che ritiene le misure ingiustificate basate su affermazioni e accuse che non hanno fondamenta concrete. Buongiorno, bentornati su Mix24, buongiorno Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Allora Alberto, hanno fondamento le accuse che abbiamo sentito? Ma certamente, l'accusa dei sauditi che Qatar sostiene i fratelli musulmani, i gruppi salafiti, il movimento palestinese Hamas sono tutte assolutamente vere. Khaled Meshaal, il capo di Hamas, è ospitato a Doha. Ma le accuse al Qatar di favorire il terrorismo potrebbero essere rivolte ugualmente anche all'Arabia Saudita e alle altre monarchie del Golfo. Senti, ma il fatto che il quartier generale degli americani abbia sede in Qatar, cosa significa? Adesso è simbolo di una grande contraddizione, una delle tante contraddizioni del Medio Oriente? Una delle tante laceranti contraddizioni del Medio Oriente, perché gli americani hanno 10.000 uomini a Doha, e quindi dovranno risolvere anche il problema di dove situare un nuovo quartier generale se davvero vogliono fare una NATO araba antiterrorismo. Ecco, ma gli americani che prima vendono 110 miliardi di dollari di armi all'Arabia Saudita, poi permettono oppure determinano la rottura del sistema di sicurezza occidentale nel Golfo, cosa significa? Donald Trump ha accettato e abbracciato la visione dei sauditi e delle altre monarchie del Golfo, che mettono sullo stesso piano la lotta ai jihadisti dell'ISIS con quelli alla Repubblica Islamica dell'Iran, perché questa è la vera accusa che viene rivolta a Doha, di intrattenere buoni rapporti con Teheran. Ma si tratta di uno scontro tutto interno al mondo sunnita? Si tratta di uno dei tanti scontri all'interno del mondo sunnita, perché la sconfitta in Siria è stata lacerante da questo punto di vista. Ma questo scontro che conseguenze può avere per noi? Beh, le conseguenze possono essere anche pesanti. Bisognerà vedere se gli americani poi interverranno con un'opera di moderazione, per esempio nei confronti del blocco aereo o navale, che potrebbe peraltro spingere il proprio Doha nelle braccia di Teheran. Certo, noi dobbiamo tenere presente che il Qatar ha in Italia, per esempio, investimenti cospicui. Enormi, sì, discreti anzi. Senti, sì, tu scrivi 6 miliardi di dollari. Quanti? 6 miliardi di dollari in investimenti immobiliari dell'hotelleria. In Italia. Tu scrivi che ancora prima di nascere, facendo così, però si frantuma, lo accennavi prima, quella NATO araba organizzata o pensata in qualche modo contro il terrorismo, cioè? Beh, in poche parole, questa NATO araba era sorta in realtà come una coalizione anti-iraniana, questa è la verità. Ricordiamoci che Trump arriva il 19 maggio in Arabia Saudita, lo stesso giorno in cui Teheran votava per il presidente, sì, cioè esatto, una sorta di sfida. No? Sì. Ecco, però questa situazione che si è creata è il suggello del fallimento o del successo della strategia di Trump in Medio Oriente, a seconda dei punti di vista? Secondo me è il suggello di un fallimento, e soprattutto, secondo la mia opinione, magari sarà smentita dai fatti, Trump ha abboccato ancora una volta allo schema che gli è stato presentato dalle monarchie del Golfo, che sono i grandi clienti degli americani da 70 anni. Cioè, tu parli di una linea politica di Riyadh anti-Iran, che è noto, ma è così da sempre però. Cosa c'è di nuovo? Beh, di nuovo c'è questo, che appunto è stata la guerra in Siria, quella che ha provocato tutto questo. Cioè, lì dentro il Qatar, le monarchie arabe del Golfo si volevano giocare una rivincita sulla caduta del regime sunnita di Saddam nel 2003 in Iraq. questa sconfitta dovrà essere ripagata dall'abbattimento del regime di Assad, con l'intervento della Russia, dell'Iran e degli Hezbollah libanesi. Non è stato possibile perché sono loro che poi sono intervenuti. Ecco, ma la guerra infinita, Alberto, la guerra infinita in Yemen dell'Arabia Saudita ha anche questa un ruolo importante, è all'origine in qualche modo di questa situazione? È un tassello molto molto importante. Perché se ne parla poco. Esatto, qui si parla della guerra Yemen dei sauditi a partire dal 2012, quando cade il regime, ma in realtà io ho visto bombardare i sauditi, i ribelli Houthi già nel 2009 nel nord dello Yemen. Perché? Perché quello è il cortile di casa dell'Arabia Saudita, e se non vengono fuori da quel pantano è un grosso fallimento che può avere anche riflessi diretti sulla casa dei Saud. Ecco, ma è un giardino appunto loro, che però non riescono a uscirne di lì. Perché? No, non riescono a uscirne? Gli aiuti degli americani non riescono a venire a capo della resistenza dei ribelli Houthi sciiti, che sono sostenuti anche dall'Iran. Ma hanno una quantità di armi impiegate in questa guerra che è infinita. Sì, però io non mi ricordo che l'Arabia Saudita abbia vinto un conflitto negli ultimi decenni, l'Iran sì. Ah. Mi spieghi bene le ragioni politiche e religiose dello scontro tra Riyadh e Doha? Beh, diciamo che curiosamente il Qatar e l'Arabia Saudita condividono la stessa ideologia religiosa wahhabita, cioè di quel predicatore integralista Wahab che nel Settecento, partendo dal deserto saudita, ha praticamente sparso il suo verbo ideologico integralista in tutta l'Arabia Saudita. Il problema è che in un certo senso il Qatar rivendica legami di sangue con lo stesso Wahab e vorrebbe in qualche modo legittimarsi al posto degli stessi Saud. Ecco, e le ragioni personali? Le ragioni personali enormi, perché come sappiamo bene l'attuale emiro del Qatar Al Thani ha preso il potere dal padre dopo che i sauditi avevano chiesto che se ne andasse, e quindi i sauditi volevano in qualche modo e hanno sempre voluto influenzare la vita politica all'interno del Qatar e degli stati della regione intorno. Sì, però come dicevamo prima, Alberto, l'Arabia Saudita finora ha finanziato, lo sanno tutti, gruppi estremisti e terroristici. Adesso ha cambiato completamente linea, radicalmente, praticamente avvicinandosi a Israele. Ma non c'è dubbio. E infatti l'obiettivo dell'Iran, qual è l'obiettivo di andare contro l'influenza iraniana? È quella di tagliare il corridoio di rifornimento iraniano che attraverso l'Iran, l'Iraq perviene alla Siria, agli Hezbollah libanesi che sono nemici anche di Israele. Quindi si condivide un nemico comune e si fa di tutto pur di contrastarlo. Ma quindi, insomma, per capire, l'Arabia Saudita e l'Iran continuano la loro sfida ma con alleati diversi, hanno rovesciato le posizioni? Beh, diciamo che le posizioni di Riyadh si sono sempre più avvicinate a quelle di Israele, e non è un caso che proprio il viaggio di Trump dopo la tappa Riyadh ci sia stata quella nello stato ebraico. Appunto, sì. Qual era il motivo, per esempio, di incontrare la leadership palestinese da parte di Trump? Quello di in qualche modo resuscitare un negoziato di pace che possa in qualche modo legittimare questa nuova alleanza tra sauditi e israeliani. Ma l'alleanza fra sauditi e israeliani tu la vedi come qualcosa di tattico oppure di strategico? Ma io la vedo come un'alleanza tattica, anche perché in Medio Oriente in realtà di alleanze strategiche se ne sono viste ben poche. Senti, e in tutto questo Doha è il vaso di coccio nel scontro fra questi due avversari storici? È il vaso di coccio che però, attenzione, può essere regalato proprio a Teheran, perché nel momento in cui ci fosse una chiusura, un blocco navale aereo come si profila, gli iraniani sono pronti a offrire una sponda all'emiro del Qatar. Il che significherebbe? Il che significherebbe che ancora una volta gli iraniani stanno vincendo una partita sugli errori strategici degli altri. Cioè sono i più attenti e più bravi, diciamolo. Diciamo che sono quelli forse che hanno una visione strategica della regione e che hanno sfruttato con grande abilità le mosse sbagliate altrui, dall'invasione dell'Afghanistan nel 2001 a quella dell'Iraq nel 2003 al tentativo di abbattere Bashar Assad. Sono tutte sconfitte del fronte sunnita. Senti Alberto Negri, tu scrivi che il fatto che le monarchie del Golfo adesso si sbranano tra di loro potrebbe essere una buona notizia, Perché potrebbe essere una buona notizia? Beh, potrebbe essere una buona notizia se questo portasse a un indebolimento, per esempio, della propaganda wahabita in giro per il mondo. Non dimentichiamo che i sauditi sono stati quelli che hanno sostenuto quasi tutti i predicatori più integralisti e fondamentalisti in tutto il mondo arabo musulmano, non soltanto nella parte araba, ma anche in Pakistan e in altre aree del mondo. Sarebbe una buona notizia questo, l'indebolimento, non è una buona notizia per la stabilità in realtà internazionale. Perché? Ma perché potrebbe accadere quello che è accaduto con le primavere arabe. Questi sono regimi che hanno nessuna democrazia, nessun consenso realmente democratico, sono stati fragili, che come abbiamo visto sono passati in realtà spesso e volentieri da una sconfitta all'altra, e quindi una crisi nella penisola arabica è ovviamente qualcosa che potrebbe riflettersi in maniera devastante su tutta la stabilità internazionale di quell'area. Cioè, quali conseguenze per noi in Occidente potrebbe avere la rottura di questo equilibrio? Equilibrio, insomma, un equilibrio molto dinamico, molto instabile. Esatto, naturalmente, tanto per cominciare, ricordiamoci che dal Golfo passa il 40% del petrolio mondiale e quindi già abbiamo un problema di rifornimenti energetici e di gas. In secondo luogo, questi sono grandi investitori sulle piazze internazionali. In terzo luogo, questo è un paese dove ci sono in corso delle guerre sanguinose che potrebbero diventare ancora più sanguinose se ci fosse un'instabilità cronica nella penisola arabica. E quindi si dovrebbe ritornare al petrolio e al gas russo? Ma forse sì, in un certo senso sì, è proprio l'intervento della Russia nel 2015 un significato da questo punto di vista ce l'ha. E qual è il significato? Il significato è che siamo su una linea di faglia tra est e ovest, e a questo punto gli Stati Uniti in realtà non potranno soltanto affidarsi a queste monarchie del Golfo, peraltro spesso inaffidabili, ma dovranno raggiungere un accordo con Mosca. E l'accordo con Mosca porterebbe a una nuova impostazione dei rapporti con l'Iran? Ma non c'è dubbio, anche perché penso che prima o poi ci si dovrà un po' arrendere alla realtà dei fatti. L'Iran, naturalmente, per sfruttare le sue carte strategiche in Iraq e in Siria, ha combattuto i jihadisti e ha difeso il regime di Bashar Assad, in qualche modo ha combattuto contro quello che noi riteniamo essere oggi il pericolo maggiore, cioè il terrorismo integralista sunnita. Forse da questo punto di vista qualche riflessione dovremmo farla anche qui. Appunto, senti, per chiudere, noi italiani in particolare, mi sembra, se ho capito bene, che siamo completamente spiazzati da questo nuovo scenario. Beh, certo, prima ricordavamo gli investimenti del Qatar. Perché noi siamo spiazzati rispetto agli altri? Perché l'Europa un po' la sua scelta l'ha già fatta. La Gran Bretagna, è vero, accoglie parte consistente di investimenti qatarini, come anche la Francia, ma già sia Londra che Parigi si sono schierati con la monarchia saudita. La signora May, il primo viaggio all'estero l'ha fatto proprio a Riyadh, difendendo a spada tratta la presenza di militari inglesi a fianco dei sauditi nella guerra contro i ribelli Houthi in Yemen. Quindi noi siamo anche un po' spiazzati, non solo lì per i problemi. No, dappertutto, anche in Libia ovviamente. E certamente Giovanni, soprattutto in Libia. Soprattutto in Libia, perché il generale Khalifa Haftar è schierato contro il Qatar a fianco degli Emirati e delle altre monarchie del Golfo. E quindi la politica estera italiana a questo punto è tutta da ripensare. La politica estera italiana, purtroppo, nell'ipotesi che ci sia. Diciamo che la politica estera italiana ha subito nel 2011, con la caduta del regime di Gheddafi, la più grossa sconfitta dalla Seconda Guerra Mondiale, con le conseguenze che noi vediamo tutti i giorni, l'arrivo di profughi, l'instabilità alle nostre frontiere, che non sono più quelle del mare, ma sono purtroppo quelle del deserto del Sahel. Grazie Alberto Negri. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Beh, insomma, mi sembra che il quadro, Pietrangelo, sia abbastanza complesso, ma anche super preoccupante. Sì, e soprattutto manca di chiarezza, nel senso che l'opinione pubblica, per esempio, non è informata della grande menzogna che ha fatto seguito alla visita di Trump in Saudia e in queste ultime ore le notizie che riguardino il Qatar. Cioè, identificare il terrorismo con la Repubblica Islamica dell'Iran è una grande menzogna, perché bisogna ricordare che l'Iran è impegnato... Sappiamo tutti che l'Arabia Saudita è stata molto più significativa nel finanziare il terrorismo. No, ma c'è anche da raccontare, da dire che l'Iran è impegnato militarmente nella lotta contro l'ISIS, tant'è vero che Qassem Soleimani, assieme alle formazioni russe, alle formazioni irachene, sono impegnate proprio sul fronte. Poi c'è da dire anche una cosa, che cioè la società iraniana è comunque coerente con gli standard europei, se vogliamo proprio descrivere qual è il futuro e quali sono le relazioni e i rapporti. Dopodiché ci sono due non detti spaventosi, e la censura occhiuta su questi non detti fa quasi preoccupare già nel pronunciarli. È stata messa tra parentesi in questa vicenda la questione palestinese, tant'è certo. vero che la questione col Qatar è proprio in questi termini, cioè il fatto che l'Arabia Saudita vuole andare dritta verso il suo scopo, cioè l'alleanza solida con Trump, e l'altro è comunque non dire, il non detto riguarda lo Yemen. Ricordare, ne abbiamo parlato infatti. Sì. Appunto, ricordare che dal 26 marzo 2015 si contano 12.000 morti che non sono pianti da nessuno. E a proposito di quello che ha detto Alberto Negri, vorrei concludere, è l'unico in Italia a fare un discorso chiaro, coerente con i principi di verità basilari su una questione fa che ci riguarda tutti. Fa il giornalista colto. Mario, senti, però la cosa che stupisce è come queste alleanze degli americani, che finanziano poi sostanzialmente da sempre i paesi che finanziano il terrorismo, no, 110 miliardi di armi, di dollari di armi all'Arabia Saudita, cambio di investimenti, ma sapendo benissimo che di lì parte il terrorismo. Cioè questa contraddizione gli americani non sono in grado di affrontarla? No, perché l'equilibrio, lo spiegava benissimo Alberto prima, mi scuso, c'è la voce un po' bassa, lo spiegava Negri prima, cioè gli americani sono stretti in un veramente ginepraio. Voi dovete immaginare che hanno la sede della sesta flotta in Bahrain, poi in Qatar hanno il centro di comando dell'aviazione militare, cioè tutti gli strike in una serie infinita di paesi sono diretti da quel centro di comando di volo, e ci sono migliaia di persone che ci lavorano. Poi dovete immaginare che ha un rapporto storico con l'Arabia Saudita. Sì, quindi devono gestire delle contraddizioni ingestibili. Esatto. Cioè, in realtà anche l'unico vero nemico che loro hanno individuato, i repubblicani in questo caso, più dei democratici, ma comunque è una costante dell'America, è l'Iran, che però... Con quale però hanno fatto un accordo. Che però, francamente, ora io non sono, diciamo... Vabbè, insomma, gli americani hanno fatto l'accordo. No, ma è una potenza regionale, c'è poco da fare. La geopolitica non si gioca solo sui desideri, si gioca sui dati di fatto. La Persia è sempre stata, nel corso della storia, un attore importantissimo. Certo. Infine, posso dire una cosa sull'Italia. È abbastanza stupefacente che non ci sia un dibattito su quello che sta accadendo. Cioè, voglio dire, tanto per fare un banale esempio, Etihad ha bloccato i voli da e per il Qatar. Sì. Etihad è protagonista dell'economia italiana dentro all'Italia, partecipa alla gara, aprono oggi le buste per l'Italia. E il Qatar ha fatto investimenti importantissimi qui. Abbiamo dato le cifre. Il primo azionista o secondo azionista di Unicredit è un fondo di Abu Dhabi. Cioè, potremmo continuare all'infinito. Tutta l'economia e la finanza italiana è influenzata da questa cosa. Ieri non si è sentito lo straccio di nulla. Votano a passo di carica la legge elettorale, su quale tra l'altro potremmo cioè è abbastanza desolante, devo dire, perché poi le cose che contano e che impattano, bisogna spiegarlo alle persone che non lo sanno, e sono queste in realtà. Non c'è nessun dubbio. Cioè, per fortuna, finché potremo, le racconteremo. No, noi le raccontiamo, non ci sono dubbi. 800 24 00 24, il numero verde, 349-238-6666, l'SMS. Oggi l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata viene presentato un ultimo numero della rivista di Medical Humanities, L'Arco di Giano, dal titolo La cura della pelle, ricerca clinica umanità. Alessandra Cravetto ha intervistato per noi Maria Pia Garavaglia, che è il presidente della Fondazione Luigi Maria Monti, Istituto Dermopatico dell'Immacolata e direttore della rivista L'Arco di Giano. Dottoressa Garavaglia, Hegel diceva: non c'è niente di più profondo di ciò che appare in superficie. Questa è la definizione ideale per capire l'importanza della pelle? Sì, è molto bella, perché è anche scientifica. Non so quando la pensò, a che cosa, a quale esperienza avesse fatto, ma si pensi per esempio ad uno dei dolori per la persona e più preoccupanti in genere delle malattie, che è il melanoma. Quindi questo si nasconde. Ci sono altre malattie che sono, si esprimono con un rossore, con un eczema, con una macchia, e poi invece può essere che sia una malattia del fegato. La pelle è proprio un messaggio. Infatti le manifestazioni cutanee possono essere dei campanelli d'allarme che spesso indicano anche altre malattie più gravi e più profonde. Ad esempio, quali, oltre a quelle che ci ha già detto? Ottimo questo suo sottolineare questo fatto, perché quando si vede una macchia può darsi che uno la prenda anche un po' così, strutturalmente dice: vabbè, ci sono tante macchie, non ho problemi estetici. Invece è bene, ogni volta che appare qualche cosa di strano sulla nostra pelle, anche minimo, di andare da un medico, sperando poi che il medico mandi dal dermatologo, perché è la persona che sa spiare meglio cosa accade sulla nostra pelle. Per esempio potrebbe esserci anche una qualche infiammazione degli organi interni, il fegato, i polmoni. Pensi l'HIV, uno non potrebbe, certo, immaginare che abbia nella pelle uno specchio, invece la pelle è proprio uno degli elementi che dà indicazioni in questo caso. Dottoressa, quali sono le malattie della pelle che oggi si possono dire sconfitte grazie alla ricerca dermatologica? Beh, ti ho citato uno, il tumore melanoma. Classico, il melanoma. Noi all'IDI abbiamo il terzo centro più ricco di dati, e oramai anche molte ispessimenti, epiteliomi, ce ne sono. Direi che sono quasi tutte guarite o guaribili, tranne, guarda caso, sempre le solite malattie rare, la psoriasi, e le malattie di questo tipo. Ce ne sono di dolorosissime e anche brutte da vedersi. Quindi è una, come dire, è una delle branche della medicina più forse sottovalutate, più difficili da attuare e da applicare. Negli ultimi 20 anni però la dermatologia si è molto interessata anche a quelli che venivano considerati problemi di natura estetica. È giusto così? Guardi, questo è un modo per servire la dignità delle persone, interessarsi anche all'estetica, perché ognuno ha diritto, specchiandosi, di riconoscersi. È legato un po' alla propria identità, essere soddisfatti o meno anche del proprio aspetto esteriore. Si pensi che cosa è stata, però, per entrare nel merito di qualcosa di molto più pesante, la ricostruttiva, cioè dopo gli interventi al seno, per esempio, la chirurgia ricostruttiva non solo dà dignità, ma davvero ricompone, per così dire, la persona. Certo, non tutto deve essere a carico del sistema sanitario nazionale. Certo. Penso che il sistema sanitario nazionale debba curare quelle che sono patologie vere, oppure quelle ricostruzioni e quelle plastiche che servono a completare una cura. Le malattie della pelle sono nel loro complesso tra le più frequenti cause di richiesta di intervento medico, sia in età pediatrica che adulta. Ecco, questo cosa comporta per il Servizio Sanitario Nazionale? Noi abbiamo dei LEA molto modesti per la pratica della medicina dermatologica, e purtroppo anche le visite ambulatoriali non hanno la remunerazione delle visite di cardiochirurgia, di cardiologia, di neurochirurgia. Quindi è un settore che tocca tutte le persone più o meno, sì, ma che il Servizio Sanitario Nazionale non ricomprende tra le priorità. Quindi noi avremmo bisogno forse di percorsi terapeutici, i famosi PTDA, legati proprio anche alla pelle, affinché un nostro medico prenda in carico la persona dal momento in cui la vede all'inizio fino alla fine, e questi devono essere identificati in sede regionale affinché poi la regione possa riconoscere il costo a carico del sistema sanitario regionale. Ecco, e oggi a tale proposito la Società Italiana di Dermatologia Medica e Chirurgica che cosa può fare? Nella presentazione del volume parlerà proprio il presidente della società scientifica, Pier Giacomo Calzavara Pinton. Ci dirà anche, come ho fatto poco fa io senza essere medico, che serve che la regione e quindi il sistema sanitario veda queste malattie come significative e importanti per la persona, non solo per lo stato generale di benessere, ma anche per lo stato psichico. Qualche volta le malattie della pelle inducono tali sofferenze psicologiche che meritano di essere prese in carico completamente. Ecco, Susanna da Roma ci chiede un consiglio su una lettura in base a quello riferita a quello di cui abbiamo parlato negli equilibri del Medio Oriente, e penso che proprio il libro da leggere molto interessante è proprio quello di Alberto Negri, Il musulmano errante. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Investi con Anima, il gruppo leader del risparmio gestito italiano. Mix 24. Allora, Pietrangelo, che sentiamo stamattina? Eccola. C'erano dei fantasmi oggi in metropolitana, non si erano accorti del sorgere del sole in superficie e sono rimasti tra le gallerie a fare marameo ai pendolari. Ha chiamato il fantasma di Canterville, ha voluto questo brano per Alice con un messaggio. E la facciamo una meraviglia, per esempio, che so, alla fermata Lepanto? E facciamolo. Allora, dove ci porti oggi? United States, non so. Restiamo in America. Sì. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. The little girl from Sweden. Californication. Vabbè. Lo so che... E allora? Senti. E allora, no, volevo dirti questo. Mi sto molto divertendo a vedere tutta la disputa tra Trump, l'amministrazione americana, la questione climatica e così via. E il carbone. Il carbone, eccetera. Allora, segnalo che Goldman Sachs ha appena pubblicato un fulminante report sulla cosiddetta low carbon economy. È sostanzialmente sulla fine o comunque sul declino dell'uso dei combustibili fossili, l'uso dei materiali di illuminazione completamente diversi, insomma l'economia sta cambiando notevolmente, il mondo in cui abitiamo, ed è l'industria, l'innovazione alla fine a fare veramente la differenza e dunque a produrre effetti sull'impatto ambientale, in questo caso effetti molto positivi. E cosa dicono quelli di Goldman? Gente che sta attenta al mercato, quindi, sì. Quindi diciamo cosa molto è questa concreta. Low loro, carbon technology? No, loro dicono sostanzialmente che l'innovazione e i mercati stanno accrescendo appunto l'uso di nuove tecnologie più evolute, quindi grande risparmio energetico, grande efficienza, declino dei combustibili fossili, e dunque pensano che l'impatto della decisione degli Stati Uniti in realtà sarà assolutamente minimo, anzi tutto quello che si dice, cioè, in questo momento, l'impatto sul ritorno al carbone, Non solo sul ritorno al carbone, che è impossibile per ragioni evidenti, perché l'industria va da un'altra parte. Sì, ma no, dato che era quello che diceva Trump nella Trump, campagna elettorale. La campagna elettorale cerca di mantenere i posti del carbone, ma poi la verità è che c'è la realtà. Questa realtà di Goldman Sachs cosa ci dice rispetto ci dice che sostanzialmente ci sono in corso dei cambiamenti strutturali enormi nel sistema di produzione dell'economia, nel sistema energetico dell'economia globale. Che va in che direzione? Va nella direzione dell'energia molto più pulita e produzione molto più efficiente. Quindi alla faccia delle riaperture delle non succederà delle niente. Di carbone, non è vero. Ma non succederà nulla, ma anche se le tiene aperte, perché comunque di consumo di carbone ce n'è ancora tantissimo e ce ne sarà ancora parecchio, perché ci sono altri paesi che sono nel pieno della rivoluzione industriale. Lo sai dove oggi si brucia carbone? In Cina ovviamente, che però sta convertendo, e poi in India e nel sud-est asiatico, dove si sta facendo la loro rivoluzione industriale. Cioè, non è che il mondo lo cambiamo in due minuti, ma contemporaneamente Trump non può cambiare le sorti e i destini che sono già segnati di un'industria, è evidente. Quindi è carbone. Non solo, è contemporaneamente tutto il catastrofismo, il fatto è uscito da Parigi, così si risolverà, vedrete, basta avere pazienza. Un accordo successivo. Ma sì, solo in un accordo successivo, ma non ci saranno conseguenze, perché l'industria va da un'altra parte. Salamino! Medio Oriente, che passione, da una capitale all'altra. Tele Kabul diventa Tele Cairo, anzi il contrario, Tele Cairo si trasforma in Tele Kabul. La squadra di Zoro, ovvero Diego Bianchi, il volto telegenico del comunismo terrazzaro romano, lascia Rai 3 e passa alla 7, dove già nella prossima stagione televisiva sarà Rivoluzione d'Ottobre. Chiamerà Salerno. Ma sì. A me sembra che abbiano lasciato il comunismo da molto tempo. Io sto con Zoro. Tutta la cellula dei soviet del Pigneto, quartiere Bohemien romano, trova degna collocazione, giusto a consolare gli irriducibili della mancata realizzazione del socialismo a Saxa-Rubra, dove l'unica epurata è stata Paola Perego. Qui noi siamo dissociati, sì, lo dico totalmente. A tutti. No, ma comunque, anzi, va in soccorso, perché c'era stata anche la scomparsa nelle edicole dell'Unità, il quotidiano fondato da Antonio Gramsci, è poi salvato da Matteo Renzi. E fu anche... che fu, per dirla con Rosario Fiorello, forse che sì, forse che no, anche Fabio Fazio, custode inflessibile del telegenico comunismo dal triplo mento avvolgibile, arriverà a Tele Kabul, dove intanto forse che sì, forse che no, no, se non lo so, dipende. No, ma Tele Kabul, dipende dalla capitale, Tele Kabul, Tele Cairo, insomma, come dice Fiorello, l'Egitto non lo nominiamo. Dopodiché, che cosa succede? Succede che se arriva Fazio, per sì e per no, comunque sono state scaricate, Giovanni, sono state scaricate confezioni di latte alle ginocchia, rigorosamente chiuso nel pacchetto quello triangolare, quello piramidale, anzi. Poi sospensori di enfie, ernie subinguinali, scatole preventivamente frantumate e massicce confezioni di dolcificante a uso di relax intestinale. E insomma, la lezione. Vi vedo imbarazzati. No, ma capisco poco, ma va bene, vai. Insomma, arriva Fazio. No, allora, so la prima cosa arriva. Che serve, che cos'è? Il latte alle ginocchia confezionato nelle piramidi. Poi sospensori. L'importante è che paghino la pubblicità. Ernie. Poi scatole preventivamente frantumate e massicce confezioni di dolcificante. Secondo a me Pietrangelo non ha capito come funziona Cairo. Va bene. Allora, comunque, qui vince la sentenza di Ennio Flaiano e conferma l'astuzia commerciale di un target. Non sono comunista, non posso permettere. Ora, non potendo più fare gli espropri proletari, I compagni della parrocchietta di Lotto e di Salotto sanno farsi fare i contratti. E sapete qual è la novità? Manca poco e anche Dario Bignardi, attuale direttore di Rai 3, passa, anzi torna! Attesa di certo laddove sorge sempre il sol dell'avvenire e giammai le tenebre dell'oscurantismo. Mentre ora vi faccio ascoltare il brano definitivo, ai cattivi del cattiverio fuori mercato resta la consolazione di cantarle chiare e a gratis. Perché io mi vergogno di un paese che dà 200 euro al mese. Noi vogliamo mangiare le navi della Marina Militare, ma fra non molto saremo chiamati disoccupati, cassi integrati, e noi abbiamo presentato al servizio dello Stato. E Salvini che canta. Bravo, bella voce. Senti, ti scrive Claudia Pietrangelo, dice: gioite voi di Mix, altro che Telecabul, Gazebo sarà il vero presidio antigrillino preelettorale. Aprite gli occhi e guardate meglio. Hai capito? Ecco qua. Com'è antigrillino? No, vabbè, insomma non importa, però, lo faccio vedere però una dopo. Cosa la possiamo dire. No, ne hai dette tante, insomma, va bene. Se vince il PD non fanno prigionieri. Se vincono quegli altri almeno qualcosa succede. Vai Mario con la tua bolla. Dai, su, un po' di musica. Allora Giovanni, oggi si aprono le buste di Alitalia, sì. Preliminare, niente di che, però insomma una ventina dice che sono di manifestazioni, tra cui quelle di Delta. Ieri è stata assegnata l'Ilva, no? È stato dato il via libera a ArcelorMittal e Marcegaglia, sì. Beh, c'è un piano insomma di rilancio, anche di ristrutturazione. Nel caso di Alitalia vedremo che cosa succede. Non lo sappiamo, ci sono gli americani di Delta che sono interessati, potrebbero essere un partner, niente male, ammesso che riescano a prendere e ristrutturare l'azienda. C'è da dire una cosa, sono due storie che hanno lo stesso, probabilmente, anzi sicuro a questo punto, lo stesso esito. Due grandi marchi, due grandi storie dell'Italia dello sviluppo negli anni 60 e poi arriva lo straniero. È naturale, siamo pronti oramai. 800 24 00 24, numero verde 349-238-6666, l'SMS pubblicità. Faircam Air and Ocean non conosce confini, spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. X 24. Bei der Kaserne vor dem großen Tor. Il 6 maggio del 1992 moriva Marlene Dietrich. L'attrice tedesca, che è amata e corteggiata da Hitler, dice di no ai nazisti e scappa a Hollywood. Purtroppo per il momento un incontro non è possibile, causa lunghi impegni contrattuali. Marlene Dietrich. Sofisticata e sensuale interprete di canzoni celebri in tutto il mondo, in America diventa una vera e propria leggenda. Dopo il grande successo ottenuto in Germania con il film L'Angelo Azzurro del 1930, parte per Hollywood prima dell'avvento del nazionalsocialismo. Decide di diventare cittadina americana, ma a lungo, in America, c'è chi sospetta che in fondo sia una spia e che finga di essere nemica del nazismo. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale assiste i soldati americani al fronte, in Africa e in Italia, e poi torna in Germania per riabbracciare la madre perseguitata dai nazisti. Ma la sua patria d'origine non la accoglie e decide allora di ritornare in America. Mi amavano e mi odiavano, contemporaneamente. C'erano anche persone molto gentili. Poi c'era anche una signora veramente in gamba, una berlinese, che mi ha detto: «Allora, vogliamo fare la pace?» Morirà a Parigi a 90 anni. La terra dopo il giornale radio per i gialli della storia, appunto una puntata dedicata alla diva che disse no a Hitler, Marlene Dietrich. Adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulla rivista Top del Mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Lancet, aprile 2017, i danni della privazione dell'affetto nei primi mesi di vita. Gli studi sui neonati separati dai genitori per qualsiasi motivo sono nati durante la Seconda Guerra Mondiale, quando molti neonati venivano separati dalle madri per ragioni di sicurezza o perché le madri purtroppo erano incappate in qualche bombardamento. Oggi sono fatti sugli orfani o comunque negli ospiti di orfanotrofio, con la consapevolezza che la separazione dalla madre negli istituzionalizzati porta a danni sociali, comportamentali, neurobiologici e cognitivi. Allora si è studiato cosa succede in chi ha avuto un periodo di più di 6 mesi di privazione dalla figura materna rispetto a chi è che ha avuto un periodo inferiore di privazione e di chi ha avuto ad un'adozione precoce. Bene, sindromi di autismo, atteggiamento sociale disinibito, disattenzione e iperattività, anche in chi è che poi era allevato in famiglie piene di affetto e capacità di supporto, se si era stati privati per più di 6 mesi dell'affetto di una madre o di qualcosa di analogo. Naturalmente queste persone poi nel prosieguo della vita avevano più facilmente bassa educazione, disoccupazione e utilizzavano invece di più i servizi psichiatrici. Questo è, se volete, la spiegazione banale di quello che tutti quanti possiamo vedere quando siamo privati dell'amore in fase iniziale. Credo che sarà interessante vedere cosa succede nel tempo, e solo il tempo ci darà una prova certa in chi è che viene adottato da coppie che non hanno monogenitoriali, dove non c'è differenza di sesso. Credo che sia molto interessante attendere questi studi. E per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per i cuori puri, quelli senza paura, foglieroi dalle imprese ardimentose. Francesco Guccini, Don Chisciotte. Ho letto 1000 storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie, dei giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza, come un vigliacco ozioso, sordo ad ogni sofferenza. Nel mondo oggi più di ieri domina l'ingiustizia, ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia. Proprio per questo Sancho c'è bisogno soprattutto di uno slancio generoso, fosse anche un sogno matto. Vammi a prendere la sella, che il mio impegno ardimentoso l'ho promesso alla mia Delma, Dulcinea del Toboso. E a te Sancho io prometto che guadagnerai un castello, ma un rifiuto non l'accetto, forza sellami il cavallo. Tu sarai il mio scudiero, la mia ombra confortante, e con questo cuore puro, col mio scudo rondinante, colpirò con la mia lancia l'ingiustizia giorno e notte, come vero nella mancia che mi chiamo Don Chisciotte. Questo folle non sta bene, ha bisogno di un dottore, contraddirlo non conviene, non è mai di buon umore. È la più triste figura che si è apparsa sulla terra, cavaliere senza paura di una solitaria guerra, cominciata per amore di una donna conosciuta, dentro una locanda ore dove fa la prostituta.